2024 2024 di Enrico Pagliarini. 15:32 minuti, bentornati a 2024, puntata del 9 giugno 2012, il nostro numero verde per chiamarci, soprattutto nella seconda parte, ma c'è spazio anche adesso. 800 24 00 24, io sono Enrico Pagliarini, c'è con noi oggi Paolo Corleone che si occupa della parte tecnica. Tra poco parleremo di videogiochi, e non è una cosa per smanettoni, ma un'industria gigantesca in tutto il mondo. Questa settimana c'è stato un appuntamento importante, dicevo, ne parleremo tra poco. In questa puntata parleremo anche di Agicom. Sapete che ci sono state le nomine dei commissari e ieri anche del presidente dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e anche dell'autorità per la privacy, che viene definita così per semplicità. In realtà il nome è quello legato al trattamento dei dati personali. E poi le nostre notizie, e nella seconda parte parleremo di intrattenimento domestico, parleremo dei cosiddetti NAS, anche se il nome non è molto bello. Ne parleremo con Gianfranco Giardines ed è su quello che vorremmo le vostre domande, le vostre considerazioni. Se volete potete raggiungerci anche attraverso Facebook, c'è la nostra pagina aperta, molto facile da trovare, 2024. Potete anche seguirci su Twitter e fare le vostre domande su Twitter cercando Enrico Pagliarini. Tra poco scriveremo anche qualche cosa su Twitter. Bene, adesso parliamo di videogiochi, dicevo, industria molto importante. Questa settimana c'è stato a Los Angeles l'E3, quindi Electronic Entertainment Event, quindi 3E, e per abbreviazione negli Stati Uniti scrivono E3, che è il principale incontro mondiale di chi opera in questa industria. L'inviato del Sole 24 Ore, Luca Tremolada. Buongiorno Luca. Buongiorno Enrico. Diciamo due cose di questo evento, che non è forse una delle fiere più famose e forse una delle più giganti, ma è sicuramente ancora oggi l'evento principale dell'industria del videogioco. Ma certo Enrico, è sicuramente la fiera più grande del mondo. Parliamo di un'industria che vale dai 60 ai 70 miliardi di dollari, quindi un'industria che, quella del videogioco, che oggi vale più dell'industria della musica e vale più di Hollywood se escludiamo i DVD e i Blu-ray. Per cui un'industria che sta in ottima salute, ma sta incominciando in questo momento a sentire la crisi, anzi da un paio di anni sente la crisi. A proposito di industria che cambia anche a causa della crisi, tra poco vorrei che tu ci raccontassi come cambia questa industria tra le classiche console e gli smartphone, i tablet, e anche una domanda ti farò sui computer, ma prima alcuni annunci, visto che come sempre quando ci sono le fiere tutti attendono e aspettano annunci delle industrie. Si è parlato molto di Nintendo con il suo nuovo prodotto, è arrivato poi questo annuncio attesissimo? Sì, Nintendo ha finalmente presentato la nuova console. Ricordiamo che Nintendo è stata l'unica delle tre grandi gruppi, Microsoft e Sony, a presentare una nuova macchina da gioco, si chiama Wii U. Non ha detto ancora il prezzo, e questa è un'informazione estremamente importante per i mercati, ma il dato caratteristico di questa nuova macchina è che sostanzialmente giocheremo con un tablet in mano, il che è anche abbastanza indicativo di come stanno cambiando e di come sta cambiando questa industria. Il nuovo controller della Wii U infatti è un piccolissimo tablet, è uno schermo, un display touchable, quindi lo tattile, che ci permette di avere un nuovo tipo di interazione con il videogioco. Parallelamente Microsoft ha risposto come? Ha risposto con Smart Glass, che è una nuova tecnologia che permette di usare appunto l'iPad, l'iPhone o comunque i cellulari che hanno Windows 8, che avranno Windows 8, per interagire con il mondo di Xbox, quindi con il videogioco, ma anche con film e con musica. La terza componente, insomma la terza grande industria del videogioco, si chiama Sony, si chiama PlayStation, ed ha presentato quello che a mio parere è sicuramente l'innovazione più bella e più interessante, un gioco, si chiama Beyond Two Souls di Quantic Dream, che mette in scena non tanto e non più la solita battaglia, il solito sequel, la solita guerra, il solito metallo, persone che sparano, ma una storia emozionale, una storia vera, la storia di una bambina che nel gioco è impersonata da Ellen Page, che ha una relazione particolare con una entità, con una presenza, chiamiamolo fantasma, si scoprirà più avanti, e questa relazione insomma ci mostrerà e ci farà capire la crescita di questo personaggio e anche insomma dei passaggi di crescita. È un, diciamo, un videogioco maturo, un videogioco diverso dagli altri. Senti, tu ritieni che ci siano state a questa fiera, ma in generale nel mercato, siano più interessanti e anche più in termini numerici le novità software, cioè anche relative al cambiamento del videogioco, come tu ci hai descritto in questa storia di Beyond, e oppure le novità hardware che vanno magari in una direzione come quella della smart, sia di smart glass, ma soprattutto di Nintendo Wii U? Ecco Enrico, tu hai perfettamente centrato il punto. Cioè, oggi questa industria si trova in un momento di grandissima trasformazione rispetto al passato. Il mondo delle console, quindi parliamo di Xbox 360, di Wii, parliamo di PlayStation, sta vivendo un momento di crisi, in quanto è accerchiata da che cosa? Dagli smartphone e dai tablet, da Angry Birds, da tutte quelle esperienze videoludiche che passano attraverso le applicazioni. È un mondo appunto che sta cambiando. Il videogioco è qualche cosa che è entrato nei telefonini, che è entrato nei tablet, che è entrato nei computer, non è più solo appannaggio delle macchine da gioco. Ecco, questo momento di transizione è ancora difficile da prevedere che cosa succederà. Certamente oggi che cosa vediamo? Vediamo sulle console delle produzioni dei videogiochi che costano dai 100 ai 150 fino anche ai 200 milioni di dollari, quindi dei blockbuster, dei cinepanettoni, se volessimo usare una metafora del cinema. Mentre su telefonino che cosa abbiamo? Abbiamo delle piccole applicazioni che costano 0,99 dollari o 0,99 euro, che sono un'altra forma di videogioco. Questi due mondi in questo momento si stanno guardando anche un po' torvo, però diciamo che dall'unione di questi due mondi probabilmente ci sarà la nuova console, la nuova piattaforma di intrattenimento. Sì, una piattaforma che magari non sarà più solo videogioco, che cercherà di prendere anche altri mondi. Esatto, e tra l'altro questa è la seconda notizia di questi tre, cioè le console stanno diventando sempre di più dei media center, cioè sempre di più delle sorte di set-top box, di macchine che si collegano al televisore, che consentono di avere non solo il videogioco ma anche video, cinema, film. In particolare Xbox 360 sta ottenendo nuove licenze, ha annunciato proprio qui da Los Angeles di avere l'NBA, di avere il baseball, di avere gli sport, di avere i film, per cui in questo senso effettivamente sì, le console stanno cambiando, stanno diventando qualche cosa di altro e di più del gioco, del videogioco semplice. Senti, tornando agli annunci, questa nuova console di Nintendo quando sarà sul mercato? Allora, sicuramente a Natale. Diciamo che la delusione di questa conferenza stampa che c'è stata a Los Angeles, delusione registrata dagli addetti ai lavori, dai giornalisti, è legato al fatto che non è stato detto il prezzo, e tu sai benissimo quanto in questo momento è importante avere un valore economico legato a una nuova macchina. Per cui sappiamo di certo che uscirà a Natale, ma non sappiamo ancora quanto costerà. E nessun tipo di indiscrezione sulle nuove console sia di Microsoft che di Sony? Ricordiamo che comunque ci sono progetti per lanciarle sul mercato magari fra un anno o due. Ma io ho intervistato i capi di Microsoft e di Sony e nessuno si esprime. Che cosa vuol dire? Vuol dire che molto probabilmente stanno cercando anche di capire come sarà la nuova console. sicuramente sapremo qualche cosa durante il prossimo E3, e si parla del 2014 come data di lancio. Molto probabilmente arriverà Microsoft, da quello che so io, sono chiaramente le indiscrezioni, sono a uno stato più avanzato. Sony è più indietro, però insomma è tutto da capire che forma e che tipo di caratteristiche potrebbe avere questa nuova macchina da gioco. E i computer si fanno rivedere o diciamo che ormai quello è un mondo relegato a una piccola nicchia di appassionati? È una piccola nicchia di appassionati, di fatto il videogioco, quando sono comparse le console, sono restati in pochi a giocare ancora con il mouse, però devo dire che a questo E3 è stato presentato un gioco proprio per PC ed è SimCity, il prossimo SimCity, sì. Il mitico SimCity, esatto. Che sarà bellissimo, le immagini che sono state fatte vedere erano veramente impressionanti, era una grafica eccezionale. Fa strano perché è uno dei pochi giochi ancora per PC, certo Diablo 3 ha venduto qualcosa come 10 milioni di copie in una settimana, però sono casi abbastanza sporadici, ormai il mercato è su console o il mercato è caratterizzato dalle applicazioni su smartphone. Diciamo che il PC riguarda un po' noi, riguarda le persone che hanno iniziato a giocare con il PC, però insomma le nuove generazioni non usano più il computer, diciamolo. Cioè con il noi stavi dicendo che noi abbiamo qualche anno di troppo forse. Diciamo che noi abbiamo l'età del videogioco, ecco, possiamo esatto. Dire questo. Per cui insomma non siamo nativi digitali, ecco, questo non lo siamo più, non possiamo dire questa cosa. Bene, grazie a Luca Tremolada per essere stato con noi. Buon viaggio di ritorno in Italia, Luca, a presto. Grazie a voi, a presto. Potremmo anche dire che questo E3 o E-Cube è stato definito da alcuni la fiera del videogioco dei due schermi, soprattutto partendo dalla Wii U, che è appunto, come diceva Luca poco fa, un controller che ha uno schermo, un display, e quindi poi si videogioca guardando lo schermo più grande della TV, ma sia lo schermo sul controller che lo schermo sulla TV. E del resto questa è un'esperienza di videogioco che abbiamo anche in altri ambiti, se pensiamo ad esempio al tablet o allo smartphone, a volte succede che videogiochiamo da una parte sullo smartphone o sul tablet e abbiamo la TV accesa. Questo fenomeno del doppio schermo è un fenomeno che sta coinvolgendo anche il mondo della pubblicità, che si sta accorgendo del fatto che la gente guarda la TV e non necessariamente videogioca, ma sempre più spesso sta facendo altro sul proprio secondo schermo, o dipende dai punti di vista anche primo schermo, cioè quello dello smartphone e del tablet. Avremo modo di riparlare di questo perché è un fenomeno molto interessante anche dal punto di vista pubblicitario, ma non solo. Questo è 2024, ci fermiamo per un minuto, riprendiamo tra poco. 2024. Nella seconda parte di 2024, dopo le notizie del giornale radio, parleremo di intrattenimento domestico, partendo da uno strumento molto utile ma forse poco conosciuto, i cosiddetti NAS, potremmo anche definirli hard disk da casa, ma sono una cosa un po' più sofisticata, i network access storage. Molto interessante, allora su questo vi faremo anche alcune domande, aspettiamo le vostre domande al nostro numero verde 800240024, oppure se volete gli sms 349-238-6666, ancora uno degli strumenti più popolari di comunicazione, ma noi vogliamo sentire la vostra voce, si fa per dire, anche su Facebook oppure su Twitter. Potete cercare la nostra trasmissione su Facebook scrivendo 2024. Questa settimana sono stati nominati i vertici dell'AGCOM, i quattro commissari e il presidente. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si occupa e si dovrà occupare sempre di più di materie che toccano la vita di tutti i giorni, la nostra vita quotidiana. Pensiamo alle infrastrutture, le reti di telecomunicazioni, sia quelle senza filo che quelle su cavo. le tariffe di alcuni servizi, pensate ad esempio alla telefonia, quante volte commentiamo anche all'interno di GR24 le decisioni dell'autorità in materia di tariffe telefoniche. Il diritto d'autore, questo è un tema molto complesso, molto dibattuto, molto criticato, l'autorità precedente, i commissari dell'autorità precedente l'hanno tirata per le lunghe, poi alla fine non se n'è fatto nulla e sicuramente i nuovi vertici dell'autorità dovranno agire su questo capitolo. Comunque, in generale, l'Authority si occupa di molti aspetti che garantiscono la libertà di comunicazione, una comunicazione che si sta gradualmente trasferendo su Internet, e quindi Internet e l'economia digitale saranno l'unico mercato su cui l'Authority dovrà agire nei prossimi anni. Bene, sapete che da alcune settimane c'è un movimento che chiedeva al Parlamento di scegliere i commissari dell'AGCOM e anche quelli della Privacy, dell'Authority per la Privacy, in base al curriculum e anche alle competenze e non secondo una logica di spartizione politica. Per raccogliere una novantina di curriculum il voto è stato rimandato di 2 settimane, ma questa mossa, a conti fatti, alla fine si è rivelata, potremmo dire, una presa in giro per i cittadini, perché sapete, molti di voi sapranno come sono andate le cose questa settimana, che il PDL si è preso 2 poltrone, il PD una, l'UDC una quarta. Sono 4 commissari e il presidente indicato dal governo. Sono questi 3 partiti che hanno scritto, a giudizio di direi quasi tutti i media che hanno scritto questa settimana, che ne hanno parlato questa settimana, dicevo, sono questi 3 partiti che hanno scritto una delle pagine più vergognose della storia recente della Repubblica e che allargano quella frattura che c'è, lo sappiamo, tra il Parlamento e il Paese reale. Hanno perso un'occasione sicuramente per dimostrare di aver capito che qualche cosa sta cambiando, almeno in una parte del paese. Allora, tenete conto che la legge richiede che un commissario sia indipendente e abbia alta competenza nel settore, ma al di là dei commissari, delle singole persone, quello che ha fatto gridare allo scandalo questa settimana è soprattutto il metodo di scelta che è stato messo in pratica dai partiti. Comunque, chi sono questi commissari? Allora, Antonio Martuscello, indicato dal PDL, ex manager Fininvest ed ex sottosegretario del governo Berlusconi. Antonio Preto, anch'egli indicato dal PDL, ha lavorato a Bruxelles, non ha nessuna conclamata, almeno competenza tecnica nel settore delle telecomunicazioni. Sul PDL sappiamo che è ancora forte l'influenza di Berlusconi, quindi insomma il risultato è dovuto anche a questo, se non solo a questo. Ma potremmo dire, alcuni hanno definito capolavoro quello che hanno fatto PD e UDC. Allora, il PD ha ceduto una poltrona all'UDC, che ha scelto Francesco Posteraro, vice segretario della Camera, e tutti si chiedono che tipo di competenza possa avere questo che è stato definito un burocrate. Tornando al PD, nel quale si è vista chiara l'influenza di D'Alema e Franceschini, il PD ha indicato Maurizio Decina, professore al Politecnico, l'unico, potremmo dire, che ha un curriculum che risponde ai requisiti imposti dalla legge sulla competenza, perché non c'è dubbio che il professor Decina è competente in materia. Alcuni hanno puntato il dito e sollevato alcuni dubbi sull'indipendenza, visto che ha una società di consulenza che lavora per alcuni operatori, soprattutto per Telecom Italia, ma su questo saranno poi i fatti e le decisioni a smentire chi punta il dito, perché naturalmente uno può cambiare strategia, cambiare idee su alcune cose, vendere questa società o cedere le quote. Alcuni si sono divertiti anche a fare la lista delle età delle persone che sono state scelte per la carica di commissario. Non stiamo a fare la lista nemmeno noi, avete modo su internet di documentarvi. Vi segnalo un ottimo articolo che spiega un po' come stanno le cose, di Milena Gabanelli sul Corriere della Sera, lo trovate anche online. Allora, naturalmente su questo si potrebbero perdere o dedicare ore e ore di trasmissione, ma insomma i fatti li abbiamo commentati anche all'interno di GR24 durante la settimana, e su internet trovate molta documentazione, un ampio dibattito. Noi ci fermiamo qui, adesso alcune notizie della settimana. Digital News. Una cosa che utilizziamo tutti i giorni, non la vediamo, ma insomma sappiamo di che cosa si tratta, è la SIM del nostro telefonino. Sarà Lo standard proposto dalla Apple a essere utilizzato nelle nuove nano SIM che verranno utilizzate negli smartphone di prossima generazione. La scelta dell'ETSI, l'Istituto Europeo per gli Standard nelle Telecomunicazioni, è arrivata dopo numerosi rinvii dovuti ad un contenzioso tra i due principali proponenti, ovvero la Apple e Nokia. Queste piccole SIM saranno il 40% più piccole delle attuali SIM, circa 12 mm per 9. Digital News. Ormai tutte le grandi aziende che operano su internet hanno il proprio negozio per le app e le applicazioni. Da questa settimana anche Facebook ha lanciato il proprio App Center, dove si trovano centinaia di applicazioni, soprattutto giochi. In questo modo Facebook cerca di affermare sempre di più la propria piattaforma come una sorta di internet dentro internet. Digital News. Si intensifica la battaglia delle mappe, potremmo definirla così. La prossima settimana Apple incontrerà gli sviluppatori nella tradizionale conferenza di giugno a San Francisco e dovrebbe annunciare l'addio alle mappe di Google su iPhone e iPad. Apple ha acquistato negli ultimi 3 anni alcune aziende specializzate nella costruzione di mappe digitali e dovrebbe quindi avere un prodotto analogo per rimpiazzare Google Maps. Nel frattempo Google ha annunciato la graduale estensione nel corso del 2012 delle mappe 3D, prima su Google Earth, il programma per visualizzare la Terra sul proprio computer, e anche su Maps. L'algoritmo utilizzato è in grado di riprodurre in tempo reale la tridimensionalità sia degli edifici che dei terreni. Una notizia di cui ci siamo dimenticati la scorsa settimana: dal prossimo novembre l'IPTV di Fastweb verrà chiusa. Si tratta una delle prime, forse la prima IPTV in Italia, che oggi conta circa 150.000 utenti. Altro servizio, a proposito di cose che vengono chiuse, che terminerà di funzionare alla fine di giugno, è un servizio lanciato dalla Apple, si chiama Mobile Me, che è stato sostituito nel frattempo da iCloud. Digital News. Ultima notizia riguarda Samsung, che entra con 2 piedi nella Linux Foundation e diventa Platinum Member. Saranno contenti tutti i sostenitori di Linux. Per entrare come Platinum Member bisogna pagare $500.000 all'anno. Samsung in questo modo si affianca a Fujitsu, IBM, Intel, NEC, Oracle e Qualcomm. Sull'Oracle mi è caduta, mi sono un po' sbagliato, perché ho visto al di là del vetro Gianfranco Giardina già pronto per intervenire nella nostra seconda parte. Non c'entri nulla con Oracle, però mi sono distratto e ho sbagliato. Allora vi ricordo il nostro numero verde per chiamarci in diretta: 800 24 00 24, per parlare di intrattenimento domestico, una cosa che diventa sempre più importante. E al centro di questo intrattenimento naturalmente ci deve essere un cassettone all'interno del quale tenere archiviati i nostri contenuti, video, fotografie, audio, musica, eccetera eccetera. E tutto ciò si chiama in termine tecnico NAS, ma potremmo definirlo un bel grosso hard disk che si collega alla rete. Come funziona? Beh, le vostre domande tra poco al nostro numero verde. Ci risentiamo dopo le notizie di GR24. 2024. Le 16:07 riprende 2024, io sono Enrico Paglierini, a fianco a me c'è Gianfranco Giardina. Bentornato Gianfranco, buongiorno. Grazie mille, buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori. Gianfranco Giardina dirige il magazine digitale dday.it, che è un concentrato di tecnologia elettronica di consumo. Una delle cose che mi appassiona di più, anche se ne parliamo anche a Radio 24 ogni tanto, ma poi ci accusano di parlarne troppo, sono le nuove TV che stanno uscendo sul mercato con tecnologie sorprendenti e incredibili. Ma oggi non ne parliamo. No. Allora, oggi parliamo di una cosa che prima io ho definito una sorta di cassettone digitale all'interno del quale mettere tutti i nostri file, le nostre video, foto, contenuti, eccetera eccetera, che i tecnici chiamano NAS. Ho fatto anche un po' di confusione prima, perché tutta la settimana con i miei colleghi dicevo parliamo di NAS e spiegavo che cosa voleva dire, quindi so benissimo che significa Network Attached Storage, quindi uno storage, quindi una cosa che contiene dati, insomma un hard disk sostanzialmente attaccato e inserito nel network. fatto un po' di confusione, perché vabbè, il nome non è molto no, felice. Il nome tra l'altro in italiano sono i carabinieri del naso. Sì, o i naso, oppure addirittura ricorda il naso, quindi sì. non c'entra assolutamente nulla con, cioè è un nome che non parla in italiano. Io preferisco chiamarlo o microserver domestico oppure cassaforte digitale. Non sono nomi utilizzati dall'industria, ne li troverete sugli scaffali dei negozi, ma è per farci capire questa scatola nera, perché di fatto più delle volte si presenta proprio come una scatola nera, ma questa scatola nera domestica che non avendo neanche un display normalmente, quindi niente, sembra una cosa molto molto fredda, quasi una cosa di servizio, in realtà è una cosa molto utile, anzi direi in ogni casa in cui esiste più di un device digitale, quindi più di un computer, oppure computer più tablet più smartphone, oppure TV connesse alla rete, ecco, in tutte queste case dovrebbe esistere uno di questi apparecchi. E i vantaggi, ma adesso abbiamo qualche minuto per raccontare. Uno potrebbe confondere tutto ciò con un hard disk, perché l'hard disk esterno portatile che uno può portarsi in giro assomiglia magari un po' più piccolo rispetto a questi strumenti. Spieghiamo subito che non è un hard disk portatile o un hard disk esterno, semplicemente perché quelli normalmente hanno un'interfaccia USB, quindi vanno attaccati e sono, come dire, schiavi, no, del PC. Esistono e funzionano soltanto se c'è un computer che li fa funzionare, se no sono fondamentalmente soltanto degli hard disk. I NAS, quindi gli apparecchi di cui stiamo parlando, invece, oltre ad avere uno o più hard disk, e poi vedremo perché sono anche più di uno, contengono di fatto un processore, una memoria RAM, quindi sono veramente dei microserver, sono come dei PC senza display, senza uscite particolari, molto molto semplificati, soprattutto pensati per avere bassi consumi in operatività, e questo perché sono pensati per non essere mai spenti. Cioè, in casa normalmente questi apparecchi vengono accesi e lasciati accesi. Il consumo è molto ridotto, anche se dobbiamo dire che per ridurlo ulteriormente tutti questi prodotti prevedono anche un pattern di accensione e spegnimenti. Quindi io posso programmarlo e dire: ti accendi tutte le mattine alle 7, tanto io non faccio niente prima delle 7, e ti spegni tutte le sere all'una di notte, perché poi io vado a letto. Quindi, oppure gli orari d'ufficio, anche durante i giorni della settimana. Quindi si può anche addirittura gestire delle accensioni e spegnimenti programmati per ridurre ulteriormente. Ma comunque sono apparecchi che normalmente, quando sono di buona qualità, nascono già per avere consumi molto ridotti. Senti, giusto per far capire ai nostri ascoltatori che stiamo parlando di strumenti per la casa, per una casa normalissima e non per case super evolute o piccoli uffici, eccetera, anche per piccoli uffici naturalmente, però quanto costano queste cose? Cioè il prezzo di entrata, di accesso ad uno strumento di questo genere, può essere quanto a spanne? Ovviamente ci sono molti modelli, sì. Molte performance, anche la dimensione dei dischi conta, diciamo che dai 300 euro ai 500 euro c'è la più grande gamma di disponibilità di questi apparecchi, normalmente anche equipaggiati con due hard disk. Sappiamo che le recenti, ormai neanche più tanto, ma le alluvioni nel sud-est asiatico di qualche mese fa, sì, hanno in qualche modo compromesso buona parte della produzione degli hard disk. Adesso gli hard disk hanno un costo che non si sa se per speculazioni o se per effettive difficoltà di produzione, comunque un costo leggermente più alto di quanto non fosse prima, quindi questi costi poi oscillano con i prezzi degli hard disk, ma in buona sostanza questo è l'ambito, no? E quindi un ambito sicuramente non da acquistare così sull'impatto, sull'onda emotiva, ragionandoci, ma è una cosa che in una famiglia che ha magari anche tanti utenti, tanti dati, è una cosa molto importante. Le gradiranno avere un NAS a casa chi ci si è già scottato con la perdita dei dati digitali, per esempio perché aveva tutte le sue foto su un computer che si è rotto o semplicemente che è stato rubato, oppure perché aveva tutte le sue foto su un hard disk esterno che si è rotto, perché ricordiamo gli hard disk sono soggetti a guasto, sono apparecchi meccanici e molte volte si guastano in qualche modo potrebbero anche essere recuperati i dati, ma il costo del recupero di questi dati è esorbitante. Sì. Va bene soltanto per dati assolutamente critici per le aziende, ma non certo per le foto di un povero. Recupero dei dati. Ma sono operazioni normalmente molto costose. Esatto, giustamente Paolo Corleone, che è in regia, e direi anche Micol, che oggi è al centralino, ma è un po' lontana, quindi non riesce a parlare con noi durante la trasmissione, dice Paolo Corleone, direbbe Micol, ma anche questi si possono rompere. No, Micol in particolare, perché le si è rotto un hard disk esterno e ha perso tutti i dati. Anche questi si possono rompere. Sono hard disk assolutamente normali, però... sono hard disk da desktop, si possono rompere, però per questo dicevamo forse anche più di un hard disk. Dei NAS, anche entry level, quindi non andando su apparecchi diciamo aziendali o cose più grandi, normalmente offrono due hard disk. Cioè, possono anche nascere con un hard disk solo, ma due alloggiamenti. Se si installano due hard disk uguali, si può impostare una politica chiamata RAID 1, ma in buona sostanza ogni dato che scrivo sul primo disco viene scritto e copiato anche sul secondo disco. Nell'istante in cui dovesse morire un disco, il disco si sfila, se ne infila un altro, intanto il NAS continua a funzionare con l'altro disco perfettamente funzionante, i dati non vengono persi e quando reinserisco il nuovo disco i dati vengono rireplicati sul disco nuovo. Quindi questo è un chiaro sistema di ridondanza che permette di assicurarsi contro il guasto di un hard disk, non il guasto contemporaneo di due hard disk. Cosa però improbabilissima. Statisticamente improbabile, a meno di disastri locali, quindi un'alluvione che manda sott'acqua il NAS, manda sott'acqua sia il disco 1 che il disco 2, e allora in quel caso evidentemente non c'è più niente da fare. Ci sono però altre soluzioni. E quindi parliamo tra poco allora. Adesso ricordo il nostro numero verde, se volete chiamarci per farci domande su questo argomento, su questi cassettoni digitali, su queste casseforte digitali, 800 24 00 24, oppure se volete gli sms 349 238 6666. Potete utilizzare anche Twitter cercando Enrico Paglierini. Stiamo anche attivando il profilo Twitter di 2024, ve lo raccontiamo la prossima settimana. Oppure potete utilizzare anche Facebook, la nostra pagina è aperta, se volete scrivere la vostra domanda c'è spazio anche per voi. Ci risentiamo tra un minuto. 2024. Una cosa che non abbiamo affrontato in questa puntata, ma anche perché non ci sono novità scottanti, è il famoso tema della costruzione di un network di prossima generazione in fibra ottica in Italia. Allora, ne abbiamo parlato la scorsa settimana partendo da un esempio molto interessante, soprattutto per le zone di provincia, non le grandi città dove si può fare grande business, e quindi vi consiglio di riascoltare la nostra puntata della scorsa settimana in diretta da Trento, e abbiamo parlato di Trentino NGN, dove NGN sta per Next Generation Network. A proposito del dibattito nazionale, questa settimana l'unica notizia di rilievo è che il presidente della Cassa Depositi e Prestiti, Franco Bassanini, durante un convegno ha detto che se Telecom Italia intende investire nella rete in fibra ottica nelle aree a maggiore traffico, non c'è dubbio che la Cassa Depositi e Prestiti è disponibile a partecipare al finanziamento. E il dibattito è tutto qua, cioè ci sono due progetti paralleli, quello di MetroWeb, che è finanziata da Cassa Depositi e Prestiti e Telecom Italia, e ne abbiamo già parlato, quindi avete modo di recuperare le nostre vecchie puntate per capire molto bene come stanno le cose. Dicevo, ci sono questi due progetti e sostanzialmente siamo in attesa di capire se e come MetroWeb e Telecom Italia raggiungeranno un accordo, che è l'unica soluzione per portare fibra almeno nelle aree più ricche del paese, e poi su quelle altre naturalmente il dibattito è ancora più complesso. Detto questo, torniamo ai nostri Network Attached Storage, che sono questi sistemi, questi chiamiamoli pure hard disk ma un po' più evoluti, questi mini server che possono stare nelle nostre case. Allora, prima Gianfranco, a proposito di errore, ho fatto un ulteriore errore, mi sono fidato di Wikipedia nella fretta, e non sempre bisogna fidarsi di Wikipedia, anche se è un'ottima fonte, perché Wikipedia nella versione inglese si sbaglia, mentre il titolo è corretto, Network Attached Storage, all'inizio del testo scrive Network Accessed Storage, che non si sa che cosa vogliono dire, insomma si sono sbagliati. Sì, ma oppure hanno cambiato nome. Ricordiamo per esempio, tanto per fare un esempio di questo tipo, che il DVD, che è Digital Video Disc all'inizio, Dopodiché, visto che se ne pensarono altri usi, strada facendo gli stessi standardizzatori lo cambiarono in Digital Versatile Disc. Quindi la V andava bene sia per video che per Versatile. Sì, sì. Quindi non c'è uno sviluppo ufficiale dell'acronimo. Senti, DVD. Se si spacca tutto, cioè se si rompono tutti gli hard, vabbè, adesso diciamo che la probabilità, come abbiamo detto, che si rompano contemporaneamente entrambi gli hard disk, tra parentesi, noi consigliamo quindi di comprare uno strumento di questo genere a partire da almeno due hard disk. Sì, assolutamente. Ecco. Cioè non vale il rischio che si possano rompere l'hard disk e quindi perdere tutti i dati che si affidano al NAS, non vale l'extra costo che c'è per passare da un NAS a un disco a un NAS a due dischi. Perfetto. E quindi conviene assolutamente orientarsi sin da subito verso un sistema a due dischi. Però adesso qui, quando entriamo nelle funzionalità di questi apparecchi, poi bisogna fare dei distinguo, perché non tutti i NAS hanno tutte le funzionalità, quindi poi bisogna andare a controllare quale si sta comprando eventualmente, ma molti NAS permettono di avere, adesso che la cloud va di moda, un sistema di ulteriore backup, almeno dei dati più importanti, su degli spazi server in cloud. Sia la rete internet. Sì, sia con un sistema che potremmo chiamare tipicamente proprietario, quindi il produttore del NAS mette a disposizione una certa quantità di storage su internet per fare un backup di una parte dei dati, oppure addirittura in modalità cooperativa. Come funziona? Questa è una cosa anche un po' nuova, praticamente tra i possessori della stessa marca di NAS. I dati vengono ridistribuiti e ridondati anche su diversi NAS, basta che io decido di mettere a disposizione sul mio disco, per esempio, faccio un esempio, 100 giga, automaticamente mi ritrovo altre 100 giga su hard disk di terzi, che sono ovviamente ridondati, copiati più volte, no? In modo tale che se c'è un evento disastroso a casa mia, quindi sul mio NAS, posso in un secondo momento recuperare i dati dai NAS di tutti questi. Molto bello. Questi dati sono criptati, ovviamente, sì, con sì, tutte le sicurezze. Uno potrebbe, del caso. Potrebbe domandarsi, visto che comunque ci sono dei servizi in the cloud, quindi su internet, che mettono a disposizione spazio, alcuni gratuiti o fino ad un certo limite gratuito, certo, e poi a pagamento, però uno potrebbe decidere invece di comprare una macchina di quelle che noi stiamo di cui stiamo parlando oggi, affittare spazio online, abbonarsi a uno di questi servizi e quindi salvare i propri dati in rete. Ne abbiamo parlato anche 2024 tante volte. Perché uno potrebbe effettivamente consigliare invece l'acquisto del NAS che si tiene in casa invece di usare internet? Beh, perché internet va alla velocità di internet. Tutti sappiamo che i collegamenti a internet non sono dappertutto velocissimi, e quindi la cosa potrebbe risultare un po' noiosa. Se devo spostare un piccolo file di Word o di Excel, è chiaro che diventa una passeggiata, un attimo, sia che sia su internet sia che sia in rete locale. Ma se devo già spostare della musica, delle foto, magari foto a tanti megapixel, eccetera eccetera, allora vedete che la situazione, per non parlare dei video, la situazione si complica in termini di tempi. E proprio perché questi NAS non solo fanno da file server, quindi permettono di ospitare file per poi accedervi per esempio da PC o da tutti i PC collegati alla rete, ma offrono anche altri servizi, come servizi di media server cosiddetti, quindi di distribuzione su rete, scusate tutte queste sigle, ma devo dirle, DLNA, che è un altro standard di cui adesso magari due parole ce le facciamo anche. Però bisogna conoscerlo, c'è poco da fare. Infatti, sì. Quindi distribuisce sulla rete a tutti gli apparecchi DLNA compatibili, che sono tantissimi, contenuti audio, video e foto, in streaming locale praticamente, al volo, anche se si parla di alta definizione, foto, ovviamente tutto velocissimo se ho i dati in locale. Allora, siccome si presuppone che i miei dati saranno navigati, io avrò voglia di vedere i miei dati, probabilmente nella stragrande maggioranza dei casi da casa mia, e alcune volte quando mi fa comodo da fuori, la situazione più ragionevole, almeno finché non saremo tutti collegati sul backbone in fibra, super veloci, no? È quella di avere il proprio NAS con i propri contenuti a casa propria, che è una cosa che poi anche nella mentalità, diciamo, dell'italiano medio è anche meglio, no? Nel caso, avere la possibilità, e i NAS questo lo permettono, di accedere da remoto ai miei dati, ovviamente in questo caso alla velocità di internet, quindi la velocità offerta da internet. Attenzione, quando parliamo di linee, per esempio DSL, sappiamo che non sono simmetriche, sono asimmetriche, sì, quindi hanno velocità, sì, in download normalmente notevolmente più alte di quelle in upload. Quando noi accediamo al nostro NAS da fuori, praticamente facciamo traffico in upload quando scarichiamo una foto, per esempio. Quindi anche qui vediamo che in alcuni casi, per esempio, avere una linea DSL che offra un po' di velocità in più anche in upload può essere utile, o anzi molte volte molto importante, se per esempio ho un NAS a casa e mi capita di accedere a questo NAS da fuori. Il caso più banale, più semplice, è vedere le foto. Cioè, incontro un amico che non pensavo di incontrare, magari in vacanza, voglio rivedere le foto dell'anno scorso, ecco, in un attimo dallo smartphone o dal tablet accedo velocissimamente, o meglio, veloce, tanto quanto internet mi consente, ma poi ci sono anche qui degli stratagemmi di ottimizzazione delle foto per far sì che le cose ovviamente vadano come esperienza più veloce, e posso navigare e fargli vedere le foto dell'anno scorso che non avevo pensato di portarmi dietro perché non avevo pensato di incontrarlo. E quindi questo è il fatto di avere sempre accessibili i propri dati, ma quando sono a casa, quindi nella stragrande maggioranza dei momenti, di averle a una velocità assoluta. Sì. Uno potrebbe pensare, ma queste sono cose da persone brave, invece sono cose alla portata di tutti, sì, molto semplici, e sono anche molto facili da configurare. Esatto, per esempio, molti non capiscono, infatti non l'abbiamo detto, come si configurano poi questi aspetti, perché stiamo parlando di una serie di servizi. Magari ci torniamo. Però effettivamente tutto ciò ti cambia la vita, perché che siano su internet o che siano su uno strumento, un NAS a casa, comunque che siano accessibili da qualunque luogo, ecco, questa condizione cambia effettivamente la vita delle persone. Io utilizzo, devo dire, Dropbox, anche perché non ho molti contenuti. Ogni tanto Gianfranco Giardina sorride quando gli racconto che io non ho niente, c'ho praticamente nessun tipo di canzone, nessun video, non ascolto musica da radio internazionale. Perché lavori troppo. Può anche essere, può anche essere. Dunque, un nostro ascoltatore ci chiede se i NAS possono essere collegati in rete anche con cavo Ethernet. Solo col cavo Ethernet. Ci sono anche quelli che hanno connettività Wi-Fi, offrono almeno una chiavetta aggiuntiva, ma normalmente sono collegati con cavo Ethernet. Cioè, normalmente stanno accanto al router. Parliamoci che il router sono in rete a tutti gli effetti. Ha più di una porta, no? E quindi offre, non so, tipo 4 porte per la rete locale e 5 porte più il wifi, questa è la configurazione tipo. Ecco, a una delle porte Ethernet viene attaccato il NAS, dopodiché, diciamo, per configurarlo tramite un browser web, quindi da un PC qualsiasi si accede a una pagina che permette di fare tutte le configurazioni del caso, e quindi poi anche configurazioni e anche servizi anche poco evoluti, semplici o anche molto evoluti, a seconda dei gusti e delle necessità. Bene, nostro numero verde 80024 0024, l'ha chiamato Massimo da Brescia. Buongiorno Massimo. Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Prego. Niente, ascolta, mi è capitata una cosa abbastanza strana con un NAS, non so se ne avete mai sentito parlare. È un NAS con 4 dischi RAID, i dischi a posto, si è danneggiato il sistema operativo Linux su firmware. Disastro completo, perché alla fine per ripristinare i dati, fortunatamente ho trovato un collega che aveva un NAS uguale al mio, abbiamo fatto il cambio dei dischi e sono riuscito a rimettere tutto con le stesse password, le stesse modalità di accesso alle varie cartelle e dati che c'erano sopra. Ci sono dei modelli che voi sappiate di NAS che permettono il ripristino del sistema operativo senza cancellare i dati sui dischi, perché il problema è che questo NAS qua, riformattando il firmware, praticamente cancellava tutti i dati sui dischi. Massimo, sì, chiaro. Grazie Massimo. Dunque, allora, va detto una cosa, Gianfranco, che prima tu hai ricordato, ma forse una parola in più merita. Abbiamo detto che si tratta di piccoli server, quindi funzionano grazie a dell'intelligenza che sta a bordo. Quindi assolutamente, un po' di, sì. C'è un sistema operativo. Esatto, c'è un sistema operativo. sono basati normalmente su Linux, come diceva il nostro ascoltatore correttamente, e chiaramente ci sono dei modelli, adesso non vorrei entrare nel dettaglio dei singoli modelli o dei singoli produttori, dei modelli più furbi e un po' meno furbi da questo punto di vista. Va anche detto che con 4 dischi, che dalla configurazione del nostro ascoltatore, si possono fare cose anche più sofisticate del RAID 1, e quindi bisogna vedere come era configurato il RAID, perché il problema poi può essere il RAID, perché su un disco invece in RAID 1 normale, quindi un disco semplicemente copiato, io posso anche sfilare il disco, inserirlo su un PC Linux, banalmente, e ripristinare tutte le condizioni d'accesso che voglio. Quindi è chiaro che siamo sempre nell'ambito dei guasti, e dei guasti che richiedono un intervento importante, no? Non sento frequentemente, anzi di quello dire, la prima volta che sento del crash del sistema operativo di un NAS, mentre ahimè ho sentito diverse volte che l'hard disk si rompa, ecco, questo sì. Dunque, ci risentiamo tra pochi minuti, adesso c'è la pubblicità, il nostro numero verde, gli SMS, Facebook, a tra poco. 2024. Riprende 2024, stiamo parlando di intrattenimento domestico e di quanto è importante avere in casa, quando abbiamo molti contenuti da gestire, magari li vogliamo utilizzare da più di un computer, li vogliamo mantenere sicuri, perché abbiamo parlato certo di possibilità di rottura, ma sicuramente è più solido, più sicuro uno strumento che abbiamo definito cassaforte digitale, ma che spesso gli esperti definiscono NAS. Beh, sicuramente è più sicuro quello piuttosto che l'hard disk del nostro computer o un hard disk esterno molto semplice. Edoardo da Ravenna, buongiorno Edoardo. Ah, pronto, buongiorno. Prego. No, io volevo chiedere, siccome ho perso nel giro di 2 settimane un hard disk esterno e un hard disk di un notebook, quindi ho perso tutti i dati, e per di più mentre stavo facendo il trasferimento di dati dall'hard disk esterno al notebook, volevo sapere, cioè, se è in previsione un abbassamento di prezzo di questi NAS, oppure, cioè, ci sono altre soluzioni equivalenti, bene o male. Sì, giusto per capire, tu di quanto spazio avresti bisogno? Ma io avrei bisogno all'incirca di 500 giga, un tera, qualcosa. Perfetto, giusto per capire, perché ad esempio io ho bisogno di poco spazio, utilizzo con felicità Dropbox, e magari fra poco farò un piccolo abbonamento a Dropbox per avere un po' di spazio in più. Quello lo utilizzo già, quindi. Insomma. Bravissimo. Perfetto, grazie Edoardo, buon ascolto. Dunque, grazie. Gianfranco, allora, diciamo anche che si trovano ottimi prodotti a meno dei 300 euro che tu citavi. Sicuramente non con due dischi. Ecco, perché, ecco. Allora, i dischi che vanno nei NAS normalmente sono i dischi che sono comunque i dischi SATA per PC. Sono dischi standard, non sono dischi particolari. Sì, sì. Bisogna certo verificare che, siccome molte volte il NAS viene venduto senza dischi e poi i dischi si comprano a parte, che i dischi che si stanno comprando siano nella lista di compatibilità di quel NAS, che normalmente è amplissima, però ci sono dei dischi che sono stati testati per il corretto funzionamento con quei NAS e sono sufficientemente affidabili. Allora, quindi il costo si compone di due pezzi. La scatola che ha dentro, anche te abbiamo detto, il processore, la memoria, il sistema operativo, eccetera, eccetera, e la coppia di dischi che noi abbiamo ipotizzato come minimo necessario. Ecco, è chiaro che il costo dei dischi, l'abbiamo detto, scenderà un po', sia perché normalmente il prezzo dei componenti storicamente scende o comunque aumenta la capienza, e sia perché c'è stata questa speculazione, diciamo, negli ultimi mesi, che ha sollevato un po' i prezzi. Il prezzo del NAS non credo che invece si sposti proprio, cioè quindi del contenuto si sposti più di tanto, quindi comunque la soglia di ingresso è quella. Io però lancio una provocazione. Lancia la provocazione. 300, 400, anche diciamo 500 euro di NAS. Se tutti coloro che ci stanno ascoltando, voglio fare un sondaggio, no? Se qualcuno in questo momento vi portasse via tutte le vostre foto, tutti i vostri video, tutti i vostri documenti, no? Magari semplicemente perché è una rapina a mano armata, sareste disposti a dire dammeli indietro per 500 euro? Non voglio perdere tutta la mia memoria digitale per 500 euro. Una volta avevamo i negativi nel cassetto, quindi perdevo le fotografie e le ristampavo. Oggi i file sono i nostri negativi, sono i nostri originali. Se noi perdiamo i file, li perdiamo definitivamente. Chi sta gestendo con multicopie manuali i propri archivi, quindi ne tiene sul proprio computer, però ogni tanto fa una copia su un hard disk esterno, eccetera, eccetera. Sì, magari si protegge, ma sa benissimo che diventa un lavoro. Che cosa? Sapere di avere la certezza di avere i dati perfettamente sincronizzati. Alcune volte fa una sovrascrittura con una vecchia versione di un documento e la scrive su quella nuova, perché sbaglia la direzione della copia, perché sono operazioni manuali e quindi suscettibili di errore. E là, oramai nella civiltà digitale nella quale siamo dentro, e le nostre memorie digitali hanno un valore, anche semplicemente affettivo, che non può in questo momento, cioè io non credo che nessuno sia disposto a perdere appunto queste memorie a fronte della spesa di qualche centinaia di migliaia di euro. Paolo, centinaia di euro, scusate. Paolo, tu sei disposto a pagare 500 euro se ti portano via tutti i dati? È un po' tanto, lui dice, però diciamo quando ti capita forse ti metti la mano al portafogli. Allora Gianfranco, una cosa bella di questi sistemi, oltre al fatto che insomma ci garantiscono una maggiore sicurezza, poi come diciamo dal 1999 a 2024 la sicurezza totale non esiste nella vita, figuriamoci, no, anzi secondo me esiste più nel mondo digitale che nella vita, perché pensate insomma a tutto quello che può capitare ogni giorno. Dunque una cosa bella è che questi aggeggi vivono anche senza essere collegati al computer, cioè non necessariamente deve esserci un computer collegato, cioè possono... No, il bello è proprio questo, loro vivono, offrono i propri contenuti alla rete locale interna come minimo, se sono configurati per l'esterno, anche all'esterno ovviamente con tutte le sicurezze, offrono i propri contenuti. Mm. E non soltanto appunto come accesso ai file, ma anche per esempio, come diciamo prima, come servizio di streaming. Quindi, sì, ecco, a proposito di streaming, ci sono un po' di domande sul formato DLNA, sì, detto anche DLNA. Mm-hmm. Ripetiamo che questo è uno standard di trasmissione di contenuti digitali. È uno dei pochissimi standard completamente condivisi tra tutta l'industria, che permette a apparecchi di marchi diversi e apparecchi anche completamente diversi, quindi PC, smartphone, tablet, TV, impianti hi-fi, di dialogare tra loro, di scambiare informazioni, scambiare contenuti di fatto in maniera facilissima senza dare nessun tipo di problema di configurazione all'utente e ovviamente, come dicevamo prima, a prescindere dalla marca del prodotto. Quindi il NAS tal dettagli parla, manda un video, può mandare un video al TV Samsung che ha una presa di rete, può mandare un audio all'amplificatore Yamaha che ha la presa di rete, può far vedere il video e sentire l'audio su uno smartphone, su un Walkman collegato alla rete, cioè quindi su un digital audio player collegato alla rete, o sul tablet. Quasi sono i mattoni che compongono l'architettura DLNA? Il server, il DLNA server, e i DLNA client. Il server è un software di fatto che sta dentro il NAS, cioè tutti i NAS di un certo tipo, sinceratevi prima di comprarlo ovviamente che ci sia questa funzionalità, hanno il DLNA server. Quindi se io copio nel mio NAS del video, delle foto o dell'audio, il catalogo di questi contenuti, divisi per cartelle, divisi per autore, divisi per data, divisi per quello che voglio, vengono offerti poi sulla rete. Ci sono poi una serie di apparecchi che hanno la funzionalità di DLNA client, tutti i TV con la presa di rete, gli smartphone e i tablet in potenza, anche se non alla nascita, nel senso che ci sono le app DLNA che possono essere caricate, i PC di sicuro, e quindi si può accedere a questi contenuti non accedendo al file, ma navigando proprio i contenuti. E quindi anche vedendo le foto, vedendo le icone dei video. Vedendo le icone dei video. Mm. E questo è molto comodo perché praticamente in questo modo io metto tutte le mie foto sul NAS e dopodiché un secondo dopo, un istante dopo, le posso vedere sul TV di casa, senti, le posso vedere sul PC senza copiarle. Senti, se io ho un NAS da un tera e a un certo punto si riempie, magari ho scelto il mirroring, quindi sì, un disco che copia l'altro. Mm-hmm. Cosa succede? Cosa faccio? Devo comprare un altro NAS o posso estrarre i dischi? No, si possono estrarre i dischi salvo aver fatto una copia. Quindi copio per esempio su un PC quel tera o su un hard disk esterno, perché tutti i NAS, o quasi tutti, dispongono anche di una presa, di una porta USB, una o più porte USB, alle quali è possibile collegare un tradizionale hard disk esterno per fare il backup di tutti i dati. Quindi io voglio fare la fotografia di tutti i dati che ho su, attacco questo hard disk esterno da un tera, faccio tutta la copia, cambio i miei dischi, metto due dischi da 3 terabyte e poi ricopio all'indietro tutti questi contenuti. Però i nostri 300-500 euro vanno su, eh? Beh, evidentemente se voglio due dischi da 3 terabyte in questo momento hanno un prezzo che è intorno ai 180 euro ciascuno, solo l'hard disk, e quindi insomma di questo stiamo parlando. È chiaro che il prezzo sale, ma non però tantissimo, no, sui 500-600 euro. La provocazione che tu hai fatto è condivisibile, quindi mi sembra giusta. Luca da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Buongiorno, senti, ero interessato ad avere qualche informazione in più sull'accesso da remoto, che trovo molto interessante. Io ho una piccola rete domestica, ho Fastweb, e volevo chiedere se per accedere in remoto è necessario avere un IP pubblico. Ah sì, lei tocca un argomento... Allora, non andiamo troppo sul difficile. No, vabbè, perché il problema con Fastweb grazie, poi Luca, che... Grazie. Tariffa in maniera abbastanza cara gli IP fissi perché ne ha pochi fondamentalmente rispetto ai clienti che ha. Scusate, oggi non ho detto una cosa che è importante. Allora, questa settimana è iniziata ufficialmente l'era della Internet of Things, perché è stato lanciato ufficialmente IPv6, quindi il nuovo formato degli IP, che ci permetterà di avere numeri IP infiniti, pressoché infiniti, e quindi ogni aggeggio che abbiamo in casa, che avremo in casa, nelle aziende, potrà avere il suo indirizzo. Quindi una parte del problema che tu stai analizzando verrà risolta nel giro di poco però tempo. Si risolve anche subito, però, senza aspettare IPv6, grazie ai sistemi cosiddetti Dynamic DNS. Cioè, in questo caso, visto che l'IP non è fisso e ogni volta cambia, ci vuole un servizio, e i NAS migliori ce l'hanno già a bordo, hanno a bordo la logica per potersi collegare a questi servizi, che tenga traccia momento per momento il mio NAS su che IP è e mi dia in cambio un nome, URL che io metto, metto il mio indirizzo e posso accedere. Per esempio, faccio un esempio banalissimo: se io mi registrassi il mio NAS come giardina, appunto, e qui ci sono dei servizi, per esempio dndns.org, ecco, allora io avrei il mio nome giardina.dndns.org, che sarebbe dinamicamente collegato al mio NAS. Questo si fa, sono servizi gratuiti, quindi si può fare tranquillamente. L'unica accortezza è è facile, ci sono tante guide su internet per cui questa cosa viene fatta poi in maniera facile, è configurare il router affinché le porte che utilizza il NAS vengono ruotate correttamente all'apparecchio. Allora, non vado più nel dettaglio perché questo qui è proprio un discorso di port mapping, ma nel caso di Fastweb, per esempio, c'è una pagina web dove l'utente configura, sulla pagina web della MyFastPage, eccetera, configura anche questi parametri. Configurati questi, accede da fuori tranquillamente. Dunque, adesso chiudiamo questa parentesi perché andiamo troppo sul difficile, questa è una roba un po' troppo complicata. E questo è uno dei motivi per cui la tecnologia poi non si diffonde, perché ancora questi servizi sono troppo complessi. E questo è un messaggio anche per gli operatori di telecomunicazioni che si lamentano che ci sono altri che fanno business, ma gli operatori in questi casi potrebbero aiutare la gente con servizi un po' più evoluti, anche con servizi di consulenza, guide online, ma non lo fanno perché non sono capaci. Nemmeno di capire. 16:45 minuti, adesso c'è la viabilità, riprendiamo tra poco. 2024. Una cosa interessante e molto utile di questi strumenti è che ci permettono di realizzare un piccolo sistema di videosorveglianza in modo più facile, perché basta comprare, o meglio, basta avere uno di questi strumenti che magari abbiamo già per altri motivi, prendiamo una videocamera e cosa succede? Beh, una videocamera adesso è una videocamera IP, quindi una videocamera di rete, compatibile, e nella grande maggioranza dei casi, quindi dei NAS che abbiano questa funzione, l'abbiamo detto all'inizio ma lo ripeto per evitare equivoci, se hanno la funzione di gestione della videosorveglianza, ecco che si occupano di registrare sull'hard disk, ovviamente, in una porzione di disco che noi possiamo configurare, di registrare i video provenienti dalle videocamere, secondo le politiche che noi scegliamo, anche col motion detection. Quindi non registrano, per esempio, una videocamera puntata su un pianerottolo piuttosto che su un giardino, non registrano quando non si muove niente, registrano soltanto le porzioni di filmato dove viene rilevato un movimento. Uno dice, ma come fa a saperlo lui prima che c'è il movimento e partire addirittura 5 secondi prima del movimento? In realtà questi i NAS registrano continuamente, ma scartano poi le porzioni dove i fotogrammi sono identici. Quindi quando non rileva un movimento, poi man mano butta via i dati, mentre conserva soltanto i dati dove è successo qualcosa. Quindi, per esempio, adesso andiamo verso il periodo di vacanza, ecco un NAS e un paio di videocamere IP per chi ha dei punti vulnerabili, è una cosa assolutamente fantastica. Quanto costa una videocamera IP? Una videocamera IP, diciamo, anche qui ci sono molte qualità diverse, perché ci sono anche quelle che hanno lo zoom e anche il panel tilt, quindi sono completamente orientabili, brandeggiabili, eccetera eccetera, però diciamo che una videocamera IP va dai 60-70 euro in su. Vabbè, quindi insomma non... Una semplice che non abbia nessuna di queste funzionalità ha più o meno questo prezzo. E sono anche normalmente Wi-Fi. Quindi è chiaro che vuol dire che può essere anche posizionata, l'alimentazione elettrica ci vuole, ma può essere posizionata, certo, quasi dovunque. Ci, sì, sono anche da esterno, ovviamente, costano un po' di più. Andrea da Roma, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, ciao. Ho sentito il discorso sul NAS. Io sono un tecnico informatico. E io personalmente a casa ho un NAS Pecus con 7 dischi da 1,5 tera. Io considero, rispetto al discorso del NAS, farei anche altre valutazioni, come per esempio anche la qualità dei dischi che si mettono nel NAS. Io ho avuto un'esperienza con dischi di poco valore che si sono rotti facilmente, invece dei dischi di... perché poi nella gestione del NAS poi subentra il problema di come trasferire i dati da un NAS a un altro NAS. I tempi non sono così brevi. Io per esperienza... Certo, quindi un disco performante da questo punto di vista. Altre cose? Questo principalmente. E poi anche per le soluzioni di backup. Non è detto che la soluzione di backup possa essere necessariamente il NAS. Per esempio, anche utilizzando dei dischi esterni USB con dei software di sincronizzazione come per esempio GoodSync, si possono fare anche delle copie di backup abbastanza facilmente, non dovendo ricopiare ogni volta tutto da capo. Sì, certo. Questo è vero. Quindi per alcuni utenti non è sempre il NAS, sì, magari, sì, la soluzione. Però diciamo vincente. Che se si spacca l'hard disk esterno si perde tutto. Se il NAS ha meno due dischi, tendenzialmente no. Si può avere una copia sul proprio computer, anche perché mettere nei propri computer un disco da 2 tera e avere un disco esterno da 2 tera non è che sia così complicato. Dipende, io considero se l'esigenza è solo fare il backup dei dati, io preferisco la soluzione con l'hard disk esterno. Se io poi invece devo utilizzare i dati attraverso la rete, come avete detto voi, per esempio con il protocollo DLNA, io per esempio lo faccio attraverso la PlayStation 3, visto che il mio televisore non è... Ma tu sei un tecnico informatico, tu sei molto bravo, invece noi dobbiamo cercare di far entrare in questo mondo anche quelli che non sono tecnici informatici. Andrea, grazie per aver chiamato e grazie per la tua attenzione, anche per il contributo che ci hai dato, che è prezioso. Adesso vediamo se... Anzi no, non abbiamo un altro ascoltatore. Gianfranco, vuoi aggiungere qualche cosa? Sì, no, il discorso sull'affidabilità degli hard disk è importante, evidente, no? Perché se non sono affidabili, con una considerazione, un NAS è praticamente sempre acceso, quindi gli hard disk sono hard disk che devono andare 24 ore su 24 senza... poi in realtà si arrestano quando non c'è utilizzo, però sono sempre alimentati e quindi devono essere vieppiù affidabili. Anche adesso, qui ci sono delle pagelle su internet, che è abbastanza facile. Adesso provare. Dico una cosa che Gianfranco Giardino dopo mi darà un pizzicotto. Pensa che io lo spengo per giorni. Tengo spento per giorni. È un po' vecchio il mio NAS. Vabbè. Ripeto, lavori troppo. Massimo da Torino, buongiorno. Buongiorno a tutti. Prego. Intanto grazie per avermi invitato e per l'interessante argomento. Volevo capire un attimino come è possibile collegare il NAS ai vari device, perché ho capito, ho parlato prima di DLNA, di rete Ethernet, però non se si può rivedere questo non ho capito qual è il suo dubbio, cioè per collegarsi come collego il NAS ai vari device, la porta di rete, presenti il cavo di rete, lo infila dentro, sì, è già collegato, cioè se sono apparecchi che hanno la porta di rete tramite la porta di rete fisica, quindi un TV con la porta di rete lo collega e tramite il protocollo di LNA vede tutti i contenuti. Chiaro. Invece per quanto riguarda i device, per esempio portatili o anche semplicemente un tablet, un netbook, un notebook, se ha una rete wifi in casa, la rete wifi è ovviamente collegata anche alla rete a filo e quindi tramite wifi dialoga. E ogni apparecchio deve avere che cosa però? Se vuole per esempio navigare i contenuti audio, video, fotografici, deve avere un client di LNA, un software che sia client di LNA. Sì, per Windows Media Player, tanto per intenderci, che è di default su tutti i sistemi operativi Windows, è un client di LNA. Chiaro Massimo? Chiaro, perfetto. Grazie. Dunque, ci sono ascoltatori che più di un messaggio è arrivato che dicono ci sono anche NAS a basso costo, ma abbiamo spiegato il perché li sconsigliamo, perché il discorso che ha fatto anche il nostro ascoltatore da Roma. Cioè compereste una cassaforte di basso costo, esatto. Io per questo le chiamo cassaforte digitali, perché è un discorso legato alla sicurezza. Adesso non vorrei tirarmi l'ira degli assicuratori che magari ci ascoltano, però io magari consiglio: risparmiate 2 lire su un'assicurazione e fatevela l'assicurazione da almeno sui vostri dati digitali. Bene, io ringrazio Gianfranco Giardina per essere stato con noi. Naturalmente molte di queste informazioni le trovate anche su dday.it. Non so se c'è proprio una guida completa, ma di settimana ci sono tutte le prove, gli aggiornamenti, anche su un aspetto che non abbiamo detto: il sistema operativo del NAS fa la differenza, perché abilita certe funzioni, altre no. Molti hanno anche una gestione di app che permettono di aggiungere funzionalità che magari al momento dell'acquisto non c'erano, quindi è bene anche tenersi informati su come evolve questo mercato, perché è come quello degli smartphone, diciamo, è sempre in costante evoluzione. Sì. Dunque è per quello che dovrei comprare un nuovo NAS. Infatti. Bene, grazie Gianfranco Giardina, presto, buon lavoro. Grazie Gianfranco. Male. Ringrazio anche Paolo Corleoni che si è occupato della parte tecnica, Gian Gabriel per l'assistenza, anche perché questa per lui è l'ultima puntata, non per noi che torniamo la prossima settimana. Dovremo tornare anche la prossima settimana. Vi ricordo che, anzi, vi invito ad abbonarvi al nostro servizio podcast, molto utile, molto divertente, di grande successo. Anzi, fate abbonare al podcast di 2024 anche il vostro vicino di casa, i vostri amici, i vostri parenti. È tutto per questa puntata. Io sono Enrico Paglierini, vi ringrazio per l'ascolto. Vi ricordo come ultima cosa il nostro indirizzo di posta elettronica che potete utilizzare durante la settimana per scriverci: 2024@radio24.it. Appuntamento alla prossima settimana. 2024. 2024. 2024. 2024.